La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. Notte balente nella casa delle streghe. Una fiaba scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Ma chi poteva avere il coraggio di avventurarsi per una notte intera in quella vecchia casa? Un rudere che non possedeva più nemmeno un nome, posto in fondo al viale dei cipressi, di cui molti temevano la sua storia, anche solo a raccontarla. Dunque, secondo voi, chi poteva entrare, furtivi come ladri, e correre tra buie stanze e lunghi, infiniti corridoi spettrali per andare a caccia di streghe? Facile indovinare. Solo Adriano e i suoi amici fedelissimi, Marta e Filippo, potevano avere l'incoscienza di farlo e soprattutto farlo nella notte della festa dei morti. Ora, qui non si trattava di bussare alla porta delle case, offrire scherzetti o ricevere dolcetti, e a volte, ahimè, si sa, ci si poteva beccare pure qualche brutta parola da certi baballotti, una specie di razza di adulti antipatici e tristi, che non ricordava più che cosa volesse dire essere bambini. Insomma, quella era una cosa seria, che si ripeteva ogni anno, nella stessa notte e nello stesso posto. La chiamavano la notte del coraggio, dove si diventava persino grandi una volta superata. Sì, perché se in quella vecchia casa decidevi di entrare, dovevi restarci tutta la notte e non potevi e non dovevi chiedere aiuto a mamma o a papà o alla nonnina cara. E se disgraziatamente questo fosse accaduto, sarebbe stato un disonore per te e per i tuoi compagni di classe, così che il giorno dopo tutta la scuola, tutta, t'avrebbe marchiato tra i codardi e per sempre. Insomma, quella era la notte del 31 ottobre, la famosa notte di Halloween, la misteriosa notte in cui i confini tra il mondo dei vivi e il mondo dei defunti si confondevano. Per una notte sola, i morti avevano il permesso di tornare in vita, con il compito di portare scompiglio e soprattutto spaventare a morte. Si fa per dire, vero? I vivi. Una specie di vendetta dei defunti. Via. Io penso, e forse mi sbaglio di sicuro, perché a loro, i morti, era toccato il destino di abbandonare il mondo dei vivi, no? Ed eccoli dunque, i tre inseparabili amici, rigorosamente vestiti di nero, nero, con gli abiti al rovescio, e soprattutto dovevano camminare all'indietro, perché solo così si potevano incontrare le streghe. Adriano portava la zucca scavata con dentro una lanterna al petrolio. Filippo teneva sulle spalle una ragnatela ricavata dalla grande borsa a rete che serviva alla mamma per far la spesa di casa. E Marta passeggiava sulla propria mano un ragno gigante che si chiamava Arachnum pelositum, grande quanto il suo pugno, ma un ragno vero, pelosissimo, e soprattutto amicissimo. E sì, perché i due si conoscevano sin da quando la bestiolina stava ancora nel suo piccolo uovo. Ed erano proprio là, i tre amici, di fronte al portone di legno annerito di quella casa fatiscente. Una casa nota nel quartiere anche per quelle strane figure d'ombre giganti che si vedevano comparire, un po' annebbiate e confuse, attraverso le finestre luride. Qualcuno diceva d'averle viste persino danzare proprio nella notte dei morti. E quella notte, anche se ci stava la mezzaluna, circondata da un alone di nebbia, era una notte luminosa. Le ombre dei defunti lo sapevano bene, perciò erano pronte a far dispetti e metter paura e brividi a chiunque avesse avuto l'incoscienza di entrare. Adriano, Marta e Filippo ce l'avevano, e come, quell'incoscienza. Col cuore che ballava impazzito, come se volesse scappare via, il petto che rullava peggio d'un tamburo e il respiro che strozzava in gola, i tre si fecero coraggio ed entrarono attraverso l'unica finestretta mezzo aperta e mezzo rotta di quella casa. Appena i tre si trovarono nella grande sala polverosa, piena di ragnatele e con l'odore inconfondibile di muffa, si voltarono di spalle e, pronti all'avventura, avanzarono, o sarebbe meglio dire indietreggiarono avanzando, cioè avanzarono certamente ma camminando all'indietro, mi spiego? No, non tornavano al punto da dove erano partiti, cerchiamo di capirci, andavano avanti, ma camminavano indietro. Più o meno, insomma, vabbè, insomma, era cominciata così la caccia alle streghe nella casa dei mostri. Con lo sguardo allerta, i tre imboccarono subito il primo corridoio che si trovava dopo il grande salone. Quello era il corridoio degli antenati, dove stavano appesi alle pareti i ritratti della discendenza di tutto il casato. Stava a fare la guardia di quel corridoio un mucchietto d'ossa, il primo defunto che Adriano, Filippo e Marta incontrarono. Si chiamava Fanghiglia Ossuta, una vecchia conoscenza. Fanghiglia Ossuta era uno strano mucchio d'ossa che credeva d'essere appartenuto alla razza umana. Francamente, quelle erano ossa un po' confuse a stare insieme, troppo fini, e non davano proprio l'idea d'appartenere a un corpo umano. Parevano piuttosto le ossa di un pollo o di un gallo, ma questo era meglio non dirglielo. Troppo permaloso, Fanghiglia Ossuta. Ps, ps, ps. Ehi, Fanghiglia, Fanghiglia. Fanghiglia Ossuta levò il cranio e vide i suoi amici avanzare. Ah, ciao, ragazzi, disse Fanghiglia Ossuta. Ma come? È già allora? Ciao, Fanghiglia, come stai? Gli domandarono i tre amici. Insomma, come sto? Così, così, rispose Fanghiglia Ossuta, triste più del solito. Sempre la solita storia con Zombin Zobbetto, vero? Disse Adriano. Già, ma proprio non la smette quello, eh? Disse inarcando il sopracciglio Marta. Non lo sopporto più, se ne va in giro con quella motoretta Zombin Zombetto a sconquassare ogni cosa. Appena mi vede mi corre dietro, urla come un indiano ossesso in battaglia, da farmi tremare tutto. E dato che lui è più veloce con quel rottame, mi raggiunge e passa sopra le mie ossa. Sì, tutte, me le confonde tutte. E poi mi ci vuole un sacco di notti per ricompormi. «Devi avere pazienza», gli disse Filippo. «Verrà anche per lui il tempo delle ossa, no?» «Sì, certo, tra 1343 anni, 7 mesi, 18 giorni, 9 ore e 44 minuti. Non vedo l'ora proprio». «Bene, che ne dite se cominciassimo la caccia?» disse Adriano. «Forza e coraggio!» disse Marta, mettendosi sulle spalle l'amico ragno Arachnum pelositum. «Tremate, tremate, streghe! Stiamo arrivando! Oh, speriamo di trovare qualcosa da mangiare, eh?» «Non ci sperare!» disse Fanghiglia Ossuta. «Le streghe hanno spazzolato via tutto!» «E ti pareva!» disse Filippo. «Questa volta riusciremo a prenderle, me lo sento!» «Avanti per la caccia!» dissero i quattro e proseguirono. Superarono molte stanze e appena furono nel corridoio delle armature di bronzo si sentì un rombo di motoretta. «Eccolo!» disse sgranando gli occhi dal terrore Fanghiglia Ossuta. Venne fuori da una delle armature del corridoio Zombin Zombetto, spericolato zombie centauro alla guida della sua motoretta Lambretta. «Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum! Ah! Là, ragazzi, come butta! Ciao, Fanghiglia Ossuta! Ancora arrabbiato?» Ma Fanghiglia nemmeno lo guardò. «Ciao, Zombin Zombetto!» dissero i tre amici. «Anche questa volta caccia di streghe, eh? Le hai viste?» «No, non le ho viste, ed è strano che non le abbia ancora viste!» «Saranno ancora a letto, nelle loro casse», disse Filippo. «Beh, in effetti non è facile svegliarsi dopo 364 notti», disse Marta. «Comunque mi pare strambo, non ho sentito nemmeno il loro schifosissimo odore», disse Zombetto. «Nemmeno io ho sentito il loro fetore», aggiunse Fanghiglia. «Ah? Fermo lì, tu! Tu non puoi sentire il loro fetore», disse con un ghigno beffardo Zombin Zombetto. «Ma che dici? Non lo sento perché non sono in giro». No, no, no, no. Mi dispiace, ossicino di pollo. Non sono un ossicino di pollo». «Ah no? E ossicino di che cosa saresti allora? Non ti riguarda». «Dai, dai, lascialo in pace, Zombetto», dissero gli altri. «D'accordo, lasciamo in pace l'ossicino. E comunque sappi che tu, Fanghiglia Ossuta, anche se fossero in giro quelle, non potresti sentire la loro puzza». «Ah no? E perché non potrei sentirla?» «Perché? Perché? Tu mi chiedi perché? Lui mi sta chiedendo perché!» «Sì, vorrei proprio sapere perché!» «Ma è semplice, Fanghiglia, su via! Prova a usare l'ossicino del tuo cervellino, se ancora non si è fatto polvere! E dimmi, dimmi, dov'è? Dov'è il tuo nasino?» «Smettila, Zombetto, andiamo avanti e non perdiamo altro tempo», disse Adriano. Fanghiglia, Zombetto, Adriano, Filippo e Marta avanzarono compatti. Ora, bisogna sapere che quelle streghe odorose possedevano un nome che non aveva bisogno di particolari spiegazioni. Esse si chiamavano Alitus Fetusum Sister. Erano sorelle. E seppure avessero delle vesti lunghe di mussola, lino e canapa coloratissime, non avevano un corpo. Niente, proprio nessun corpo. Però possedevano un solo occhio, per tutte e tre, che adoperavano a turno, se lo passavano, insomma. Ma soprattutto puzzavano. Mamma mia quanto puzzavano! Peggio di un bradipo defunto. Ebbene, nessuno era mai riuscito ad avvicinarle. Per questo catturarle sarebbe stato un trofeo da fare invidia a tutta la scuola. Quella notte, però, l'aria non era ammorbata dal loro fetore. Non si vedevano in giro, ecco, né si sentivano le loro inconfondibili grida, e chissà perché. Intanto la caccia proseguì nel corridoio degli antichi bauli. Fecero solo qualche passo, quando ecco che un sarcofago dorato, posto in cima ad una lastra di marmo, s'aprì. Il coperchio scivolò di lato e uscì Fenì cottero, la mummia. «Olà, olà, salute a voi, che tal, amici gentili?» «Salute a te, nobile fenicottero», risposero tutti. «Felice di rivedervi, come state? Bene? E io pure, io sto molto bene, moltissimo bene, e molto, molto ancora bene, bene, bene!» «Grande mummia, fenicottero, hai tu per caso notizie delle Alitus Fetusum Sister?» «Non saprei, perdonate, ma io sono una divinità. Non posso occuparmi di streghe plebee. Intanto, ora che è giunta la mia notte dei defunti, posso finalmente mettere a lavare in ammollo le mie fasce di cobra sputacchione, insieme alle sciarpe di bisso di gomma masticata dell'Amazzonia, che se poi schivo di polpetta nella serpe dei sonagli posti ad uncino mortale, ma senza le orecchie e masticando il cerume, chissà poi come si strapperanno le tonsille, che sabe, e le puzze di quell'olio di cedro rimasto nelle mie viscere, e le spezie e tutto il resto dentro il sacro sarcofago che ha fatto i cuccioli si dovranno spargere da qualche parte, spero. O no? Hai ragione, non fa una piega, fenicottero, risposero tutti. Ma di papiro madre nemmeno l'ombra delle piume, e sì che il fiume le mise in piena facendone poltiglia. Il mare poi si prosciugò nelle ossa, le vene si riempirono di sabbia, ovviamente, e finalmente io potrò scrivere il racconto della mia lunga vita, dei sogni in scatola. Bene, ora che l'ora s'è nascosta dietro l'ora del mio tempo, prendo il mio tè alle 5 della tarde e ci vediamo alla prossima. Ecco. E la mummia fenicottero se ne tornò lenta lenta nel suo sarcofago, con passo maestoso. Vi entrò, si sdraiò, ma poi ebbe un sussulto e si mise a sedere d'improvviso. Avvicinò la mano con l'unico dito che non stava nelle fasce alla bocca, come quando si ha un dubbio atroce, e domandò: «A proposito, ragazzi, sapete dirmi quanti autofaghi ha portato l'autospurgo dei pozzi neri?» «Sempre i soliti, fenicottero, sempre quelli, dormi tranquillo», dissero tutti in coro. «Ah, bene, bene, sempre così, e anche questa volta dormirò tranquillo e asciutto e spurgato. Bye bye, arrivederci, hasta la prossima. Ma, ora che mi sovviene l'eterno, e il naufragar mi gusta di questo viaggiar, e dato che la luna non ha mai svelato il perché se ne stia lassù in ciel sempre con quella faccia, a far che mi domando, a far che fai, luna? Bene, sapete che vi dico? Lascio il mio giaciglio comodo e vengo con voi. Adelante, vamos, vamos, rapido, a los enfants, a los enfants. Su, sbrighiamoci, il tempo passa e delle streghe non abbiamo nessuna traccia. Adriano, Filippo, Marta, Zombetto, Fanghiglia e Fenicottero uscirono dal corridoio delle armature e... «Via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, corri, corri, corri, corri, scappa!» Zoom! Fu un attimo, un lampo di fuoco che subito scomparve. 3 figure, a cavallo di 3 scope di saggina, 3 streghe rapide come il vento di burrasca, saettarono nel corridoio e si dileguarono in fondo al corridoio. Parevano in fuga, e lo erano in fuga. Quelle erano le 3 streghe, Alitus Fetusum Sister. Davanti a loro stava l'unico occhio che le guidava, e talmente furono veloci che non lasciarono nemmeno una scia di fetore. Subito dopo, dallo stesso punto da dove erano schizzate fuori le tre streghe Alitus Fetusum Sister, venne fuori un coso, un piccolo, grande coso. Quel coso, o quella cosa, grande o piccola che fosse, era un animale vivo. Pareva un roditore topo gigante. No, forse era un castoro, ma aveva una coda grossa e lunga. Allora sicuramente era una nutria. Sì, una nutria bianca, bianca, bianca. Una nutria bianca, sì, che le inseguiva come una belva feroce. Ma appena vide gli altri nel corridoio, ella si arrestò. Si guardò intorno furtiva. Si avvicinò, ansimando al gruppo, e domandò: Le avete viste? Le abbiamo viste. Quelle erano le streghe, le Alitus Fetusum Sister, dissero tutti, le conosciamo. Proprio così, farabutte, m'hanno quasi ammazzato, canaglie, e io che ci sono cascato come uno stupido. Mi devono la vita, sapete, la vita, ingrate. Ah, non fosse stato per me, sarebbero finite nella pancia di quell'orribile, orribile, schifosissimo ragno. Ragno? Lo interruppe Marta. Sì, un ragno gigante, un mostro, un ragno che... Ah! Gridò la nutria bianca, indietreggiando, inorridita alla vista di Arachnum pelositum, che stava tranquillo sulla mano di Marta, accoccolato. Quello è un ragno! Non è cattivo, stai tranquillo, lo rassicurò Marta. Lui forse no, ma quel ragno di là era un assassino! I ragni non sono assassini, uccidono per mangiare, è la loro natura, disse Marta. Comunque, si chiamava Sbava Sbostic. Si chiamava? È morto? Non lo so. Spero che qualcuno lo faccia fuori. Oh, poverino! Ma quale poverino? Era un grandissimo e orribile ragno, pelosissimo, con certe zampacce, lunghe il doppio del corpo e anchilosate alla tela. Quel fetido essere peloso era dotato di non so quanti occhi, tutti rosso sangue che circondavano il suo corpo come una collana di tizzoni ardenti. Oh, mamma mia, enorme, slabbrata, tumida, anche lei pelosissima! I denti poi, che parevano zanne bianche di cinghiale, ricurve, come due uncini. Sbava Sbostic aveva piazzato la ragnatela proprio nella finestra rotta della casa. Una trappola mortale, e quelle stregacce ci sono finite dentro. Insomma, erano disperate. Quando io sono arrivato, quelle stavano già nel bozzolo di bava confezionato da Sbostic, pronte a ricevere il veleno, e di loro manco l'occhio cisposo sarebbe rimasto. Allora io, che stavo tornando dalla mia futura sposa, le vidi, e anche se sapevo che quelle erano le perfide e infide streghe della casa, e siccome io sono quello che sono, cioè uno stupido, ebbi pietà. «Ti prego, aiutaci, ti scongiuro, liberaci!» mi supplicarono quelle megere. «Siamo le tre povere streghe della casa, moriremo tra le sofferenze più atroci! Senza di noi non ci saranno più attrazioni, né bambini da spaventare in questa casa vecchia!» E io chiesi loro che cosa mi avrebbero dato in cambio se le avessi aiutate. «Tutto quello che vorrai, tutto quel che ti servirà, noi te lo procureremo, perciò siamo streghe, giuratemelo!» lo giuriamo, qualunque sarà il tuo desiderio!» «Mi darete qualsiasi cosa io vi chiederò?» «Qualsiasi cosa, ma adesso liberaci, liberaci! Presto, guarda, Sbostic è già vicino a noi, ci ucciderà con il suo veleno!» Sbostic era già sopra di loro, e fu allora che entrai in azione come una furia dalla finestretta. Distrussi tutto, tutto, la tela fu ridotta in brandelli, pezzi di bava dappertutto. E loro, maledette streghe, si liberarono dal bozzolo, Scope comprese si alzarono in volo. Io le guardai e subito ebbi un dubbio atroce, perché quelle streghe mi guardavano con un ghigno malefico sulle labbra rugose. Perché? Perché mi guardavano così? Perché? Perché? Chiesero tutti. Beh, non m'era accorto che sbava Sbostic, proprio mentre serrava le mandibole sul bozzolo, e invece che sul bozzolo aveva serrato i denti sulla mia pelliccia. No, dissero tutti. Sì, sì, sulla mia pelliccia. E così il veleno me lo son preso io, in pieno. Sbava Sbostic, lo vidi scomparire in qualche buco e subito cominciai a roteare gli occhi dal dolore. La vista si stava annebbiando finché la persi completamente. Stavo diventando cieco e dopo poco persi l'equilibrio. Una nausea pazzesca mi assalì in gola. Le zampe non mi reggevano più, erano diventate mollicce come se non avessi più le ossa, e caddi un tonfo. Sentivo che sarebbe mancato poco alla morte. Oh oh oh oh, nutria si è accasciata, dissero quelle streghe assassine. Oh oh oh oh, nutria si è beccata la morte, dissero ancora. Miseria ladra, io ora muoio. Ai ai ai ai ai, la vedo male, la vedo male, dissero. E io riuscii a tirare fuori ancora un filo di voce. Aiutatemi, aiutatemi, vi prego, aiutatemi. Come? Chi è? Chi ha parlato? Aiutatemi, aiutatemi, streghe. Ehi, sei tu, nutria! Zitta, sorellina, che non sento niente. Aiutatemi, salvatemi, vi prego. Ah, vuoi che ti salviamo? Ehi, questa nutria vuole essere salvata. Sorelline, ma che facciamo? Una di loro avvicinò il loro occhio al mio viso e mi disse: «Ehi, nutria, mi senti, nutria? Mi senti?» Io non potevo più rispondere, ero paralizzato, ma riuscii a malapena a sollevare le palpebre. «Bene, nutria, bene, sei abbastanza pietosa. Allora ascoltami con attenzione, nutria. Lo vedi, il nostro occhio, lo vedi?» «No, non puoi vederlo, è vero, ma sappi che davanti ai tuoi occhi ora c'è il nostro unico occhietto. Bene, sappi pure che se io avvicinassi al tuo cuore il nostro unico occhietto, quello, il tuo cuore, riprenderebbe a battere, si rimetterebbe in moto, capisci? E tu ti salveresti. Tu vuoi che io faccia questo? Lo vuoi? Lo desideri? È questo il tuo desiderio? Rispondimi, nutria! Ehi, dico a te!» Ma io non potevo rispondere. «Allora, nutria, bandiamo le ciance e stiamo serie con le guance. Insomma, non ridere, basta, ora stai bene a sentire, nutria. Se questo è il tuo desiderio, e dato che noi ti dobbiamo un desiderio, dico bene, sorelline, ti dobbiamo un desiderio, giusto, sorellina, perché noi siamo streghe oneste, vero? E noi manteniamo le promesse, vero? E i giuramenti, vero? Dico bene, sorelline, dici bene, sorellina, dici bene, bene dici, bene, giusto, bene, io potrò esaudirlo. Nutria, il tuo desiderio. Sono brava, vero? Eppure generosa, vero? Generosissima! Dunque, nutria, forse una soluzione ci sarebbe, sai? Perché c'è sempre una soluzione. Dovresti fare una, ecco, una puzzetta. Una puzzetta, sì. Tu fai una puzzetta, nutria, e io avvicinerò al tuo cuore il nostro occhietto. Il cuore tuo comincerà a mettersi in moto e forse, sei ancora in tempo per non morire. Che dici, nutria? Ce la fai una puzzetta? Avanti, e faccela una puzzetta. Non, noi adoriamo le puzzette di nutria, sono una delizia, dico bene, sorelline? Sì, sì, sì, sorellina, geniale, geniale, meravigliosamente sublime, una puzzetta, avanti! Avanti, nutria, facci una puzzetta, oh le le, oh la la, faccela sentire, faccela odorare, avanti! Una puzzetta, capite? Volevano una puzzetta, quelle fetenti, una puzzetta. Stavo per andarmene di là, nel mondo dei morti, questione di poco, e io avrei dovuto fare una puzzetta per salvarmi. Ma come potevano chiedermi una cosa del genere? Una puzzetta! Maledette, maledette streghe, non riuscivo a vedere, non muovevo più un solo piccolo pezzo del mio corpo, ero paralizzato. Una puzzetta, non potevo riuscirci. Come si può fare una puzzetta quando uno è paralizzato e sta morendo, eh? Non è una cosa di tutti i giorni, non credete? «Farabutte, schifosissime e fatenti streghe!» dissero tutti. «Eppure, amici miei, ci riuscì!» «Cosa? Ci riuscisti?» domandarono tutti. «Una puzzetta! Hai fatto una puzzetta mentre eri morto?» disse Filippo. No, non ero ancora morto, accidenti, ma l'ho fatta. Non ci posso credere, disse con stupore Marta. Credici, credici, una sonora, grande, maestosa, gigante, incommensurabile, puzzettona, cosa da far imbiancare i capelli e la pelliccia. E difatti, come vedete, la mia pelliccia s'è fatta bianca da allora. Bene, come dicono sempre, meglio fuori che dentro, disse Zombin Zombetto. Ecco perché quelle streghe non le vedevamo in giro, disse Adriano. Vabbè, è andata. E anche se mi son perso quelle stregacce, le ritroverò. Giuro che le ritroverò, prima o poi. Ehi, aspetta, Nutria. Noi si è giunti quasi alla fine della caccia, disse Adriano. Ci rimane solo la stanza in fondo al corridoio. Sono sicuro che quelle sono nascoste là dentro. Puoi unirti a noi, no? Le catturiamo, te le consegniamo e così potrai vendicarti come desideri. Che ne dici? Sì, sì, sì, risposero tutti. No, no, grazie. Per oggi può bastare. Sono stanco. Vi lascio, amici miei. Raggiungo la mia fidanzata. Certo, sarà dura spiegarle il nuovo colore della mia pelliccia. Bianca? Ma s'è mai vista una nutria bianca? Tutti abbracciarono e salutarono Nutria Bianca e lei ritornò per la sua strada, dritta verso la tana, ad abbracciare la sua compagna. «Bene, amici tutti, è ora da questa parte!» disse Adriano. E proseguirono tutti fino alla fine del corridoio dei bauli. In un angolo del corridoio trovarono una grande porta di legno massiccio con su in cima un grande vessillo d'argento. Lì si concludeva la caccia. Marta aprì la porta piano piano ed entrarono. Era quella la grande stanza dal soffitto dorato. Le pareti erano di velluto blu, ricamate con figure d'argento, perlate d'oro e di raso di seta di vari colori fra il giallo, il verde, l'arancio, il turchese. Al centro del soffitto pendeva un grande lampadario d'ottone, con centinaia e centinaia di candele accese. Quella doveva essere stata un tempo la stanza da letto padronale. Al centro della grande camera stava infatti un maestoso letto di foggia antica, con tanto di baldacchino di mogano stagionato, tende di garza ricamate con fiorellini giallo canarino, palme e altre piante dei tropici. Al posto del materasso stava una piccola cassa da morto in legno di frassino, piccina piccina. Il suo colore era rosa pallido. Stava ritta in piedi, appoggiata alla spalliera, e ai due lati del letto qualcuno faceva la guardia. Erano a destra il re Artù, a sinistra la regina Ginevra e riverso a terra il cavaliere Lancillotto. Egli aveva metà corazza strappata, la camicia bianca lacera, sporca di sangue fresco. Sul collo stavano due grandi fori, da dove ancora colava qualche rivolo di sangue. Era chiaro che quello fosse il morso di un vampiro. E sì, doveva essere stato il pasto della notte. D'un tratto s'aprì il coperchio della piccola cassa da morto e apparve il vampiro della casa, che teneva le mani incrociate sul petto. Aprì di scatto gli occhi, rosso sangue, sospirò un alito fetido di putredine e venne fuori. «Sangue, sanguetta di sanguinaccio, son fredda io, assai più del ghiaccio. Fate largo, fate presto e fate lungo. Arrivo tosto, baronessa di Nibelungo, ed eccola qua, la ciuccia sanguinella, qui che giace la vampira in gonnella». Era una vampira, una piccola vampira. Aveva il mantello nero foderato di raso rosso, completamente vestita di viola e una gonna color rosa shocking, lunga fino a coprirle i piedini e tutta tutta piegolina e plissettata. In testa portava un cappuccio rosso che appena lo levò scoprì la sua testa senza un solo capello. Era calva, completamente calva e opaca. Il viso era smunto, magro, allungato, troppo allungato, e di color grigio cenere. Due zigomi appuntiti le sporgevano dritti dritti come fossero appendiabiti. Due occhiaie affossavano gli occhi, scure come il fumo dei camini, e le pendevano fino alle ginocchia, ma soprattutto esaltavano, imponenti dalla bocca, due bei grandi denti canini, sporgenti, lunghi, grossi come quelli di un tricheco. «Salute a te, Ciuccia Sanguinella!» dissero tutti. «Salute a voi, amici della notte! Comodi, comodi, nessun disturbo!» Aveva appena finito il fiero pasto della notte dei cavalieri e Messer Lancillotto, ahimè, non gradiva la mia corte, dunque ho dovuto chiedere aiuto al re e alla regina che me lo tenessero ben stretto stretto. Ecco, non ne voleva sapere proprio, poveretto, ha lottato come un vero eroe sino alla fine, ma poi zacchete e slurp slurp slurp me lo son bevuto sino all'ultima goccia. Ah, sangue d'eroe, sangue nobile d'altri tempi, cavaliere stagionato al suo tempo della giusta guerra dei cent'anni, meraviglia rara di questi tempi. Chissà a quando il prossimo sangue di questa nobile portata. Pazienza, ci vuole pazienza. E perdonate, baronessa Ciuccia Sanguinella, se ci siamo permessi di disturbarla, la interruppe Filippo, ma quando siamo giunti nella vostra camera, noi stavamo dando la caccia alle streghe Alitus Fetusum Sister. Voi le avete per caso viste o sentite? Io? Quelle zoticone di stregacce che portano sangue marcio da migliaia e migliaia d'anni, anzi... credo proprio che non abbiano nemmeno sangue degno di questo nome né vene, tranne quell'occhiaccio putrido schifosissimo da far venire il vomito persino ai maiali, e infatti puzzano, puzzano, mamma mia quanto puzzano. Mi sono sempre chiesta quale fosse la ragione della loro venuta tra noi morti, ma figuriamoci, pazienza, ci vuole pazienza. Bene, disse Zombetto, abbiamo solo qualche minuto, poi sorgerà il sole e noi defunti dovremo tornare nelle nostre casse. «Ben detto, ben detto!» disse Sanguinella. «Sarà bene che mi affretti a tornare dentro. Non è piacevole friggere al sole e soprattutto non poter digerire il fiero pasto del cavalier Lancillotto, ma... sniff, sniff, sniff! Sniff, sniff, sniff! Che cos'è questo? Oddio, che cos'è questo, questo, questo?» E all'improvviso si sparse nell'aria un odore acre, inconfondibile, terribile. Dovevano essere loro! Le Alitus Fetusum Sister. Ma dov'erano? Nessuno riusciva a vederle. Si sentiva forte il fetore, ma non c'era nessuna traccia di streghe. Adriano ebbe allora un intuito e alzò gli occhi al soffitto. Lassù! Guardate, guardate! Eccole! Erano proprio sopra di loro, avvinghiate al vecchio lampadario d'ottone, mentre si passavano l'occhio a turno per osservare quel che stava sotto. Subito Marta liberò il grosso ragno. Quella bestia pelosa si animò all'istante e si mise a caccia delle Alitus Fetusum Sister. Strisciò sulla parete, dirigendosi sicuro verso l'alto, su, su, puntando dritto al lampadario. Le streghe tentarono di fuggire, ma Adriano mise loro davanti la zucca luminosa. Le streghe subito si ritrassero. Sapevano bene che la lampada della zucca poteva intrappolarle e sarebbe stata la loro fine, condannate per sempre a far luce con il loro unico occhio schifoso. Ma non videro Filippo. No, non lo videro, che stava proprio alle loro spalle, pronto a gettare sopra di loro la rete. Tum, tum, tum. In quell'istante ci fu un gran battere sulla porta della camera blu. Tum, tum, tum. Un attimo di silenzio e la porta si aprì. Entrarono Nutria Bianca in compagnia della sua adorabile moglie e tantissimi altri mostriciattoli. Ultimo ad apparire fu il grande sacco di dolci portato sulle spalle dal ragno Sbava Sbostic, il quale domandò a gran voce: «Fermi tutti! Dove siete? Sacco o non sacco?» Era quello il segnale atteso. E Marta, Filippo, Adriano, Fanghiglia Ossuta, Zombin Zombetto, Motoretto, Lambretta, Lambretta, la mummia Fenicottero, la ciuccia Sanguinella, le streghe Alitus Fetusum Sisters, insieme al loro unico occhio, e tutti gli altri formarono un grande cerchio dove al centro posero il grande sacco. E qualcuno gridò: «Via le maschere!» Tutti le levarono e si svelarono i compagni della scuola di Marta, Filippo e Adriano. I loro visi si illuminarono di gioia in festa, accompagnati da una gigantesca risata che avvolse tutta la casa. Poi si sentì una sola domanda: «Sacco o non sacco?» E tutti risposero in coro: «Ossa di morto, noce e pistacchio, non dire gracco se non lo hai nel sacco!» E ci fu l'arrembaggio sul sacco, che fu subito svuotato. Dolci e le cornie di ogni tipo e squisitezza scivolarono sul pavimento della grande camera blu. Festa grande fu, festa per la notte balente nella casa delle streghe. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net